Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Quartiere di Mbare, alla periferia di Harare, una township come la chiamano qui, una periferia città popolare al 100% nera, povera ma piena di vita. Un gruppo di caseggiati abitativi slabrati, mattonelle e cemento armato, lunghi parallelepipedi di 5 piani che disegnano delle L o delle U tra campi incolti, strade e piazzali sterrati. Al pian terreno, tra le file di biancheria stesa, alcune donne espongono, per venderle, decine di paia di scarpe usate, mentre un gruppetto di bambine stanno sedute sulla terra rossa a mangiare riso e zazza, la farina di mais, in un contenitore di plastica. Non ci sono scale, ma una rampa che sale e collega due a due gli stabili. Donne giovani, bimbi e qualche uomo stanno fuori a chiacchierare, anche perché gli appartamenti sono molto piccoli e lo spazio manca. Pur essendo molto povere, le abitazioni sono molto meno sporche di quanto non ci si possa immaginare da lontano. Vengono tenute pulite, non ci sono cattivi odori. Ad ogni piano, lunghe balconate collegano diversi appartamenti. Quello di Su è all'ultimo piano. Le avevano detto che sarebbe venuto un giornalista che avrebbe solo dovuto raccontare un po' di sé, della sua vita, delle sue ambizioni, dei suoi sogni. Ci aspetta con la sorella, è un po' tesa, una visita di qualcuno venuto da lontano in quel piccolo appartamento. Ci osserva con la timidezza stampata in volto e con uno sguardo che sembra dirci: ma chissà cosa vuole da me, perché è qui? Due stanze piccole, una interamente occupata da un letto a due piazze e da un armadio. In un'altra, qualche ripiano con una manciata di medaglie e trofei. Un forno, un grande frigorifero, due piccoli divani, una poltroncina, un tavolino, sulle pareti blu un paio di poster, qualche foto. Siu ha 19 anni, sta tentando di finire la scuola secondaria, ma soprattutto spera di poter contare in futuro sul suo talento di calciatrice. Una delle 5 migliori del paese, ci aveva detto un collega dello Zimbabwe, che ci ha portato in macchina fino a casa sua. South Africa, in Angola, in Swaziland, Botswana. Seduta sulla poltrona, le mani strette una all'altra, comincia a raccontarci dei suoi viaggi con la squadra di calcio del suo paese. Alla sua età, quasi nessuno qui ha mai viaggiato all'estero. Playing soccer in Zimbabwe? Yeah. L'intervista pare subito un po' problematica, a volte Sue risponde con monosillabi. Quando sente che mi aspettavo risposte più articolate, abbassa un po' lo sguardo. Ogni tanto qualcuno dalla balconata entra nella stanza per comprare qualche bibita. Molti non hanno il frigorifero e Sue riesce a guadagnare qualche dollaro con questo piccolo commercio al dettaglio. Ah no, I just started to play soccer when I was in grade 4 and I was playing in school soccer. Yeah. Molta gente gioca a calcio, ci racconta. Io ho cominciato a 10 anni, poi sono stata contattata da una scuola di calcio e ho cominciato ad allenarmi regolarmente. Gioco bene, gioco come portiere, un ruolo molto sensibile, rappresenta l'ultima barriera contro la sconfitta di una squadra e la squadra si fida di me. Yeah, they rely on me because I'm the last person to I'm the last person to go to play. La lingua di Sue comincia un po' a sciogliersi, le mani si staccano l'una dall'altra per andare ad appoggiarsi sui braccioli della poltrona. Sulla balconata un crocchio di bambini ci guarda divertito attraverso la porta socchiusa. Abroad, is that different from Zimbabwe? Yeah, it's different. Condition. Negli altri paesi tutto mi sembrava diverso, tutto. Per esempio, lo Zimbabwe è molto meglio dell'Angola e poi lì fa troppo caldo. No, in Angola non mi piacerebbe vivere, però in Sudafrica sì. Ah, ma in Angola, il Zimbabwe è better than Angola. At the condition, the weather, it's too hot there. Prefer to stay here. Yeah, than in Angola, but in South Africa, yes. My dream is to go and stay in Europe, in Switzerland. L'Europa e la Svizzera però stanno in cima ai sogni di Sue. Some of the boys going there, they told me about. Alcuni miei amici sono stati lì e mi hanno detto com'è, è molto bello. Sue ci racconta poi della vita quotidiana qui in questo stabile, in questa township, dove la vita è dura, ma dove vi sono anche forti legami sociali. The market shops is near my home. Il mercato è vicino, mi piace la gente. Il problema qui però è l'acqua. Non c'è acqua, devo andare giù con le taniche alla fontana. E poi l'elettricità c'è e non c'è. È dura a volte. Siu ci racconta del suo amore per il calcio, di quando ha cominciato a frequentare la Soccer Academy, una ONG diretta dallo svizzero Marc Duvillard, che ha dato concretezza alla sua passione. Il calcio, per l'appunto. Una ONG chiamata IASA, che al tempo stesso le ha permesso di frequentare la scuola, pagandole la retta. Ora sta preparando gli esami per diventare contabile. Non ce l'ha fatta al primo tentativo, sta riprovando. Ma il sogno rimane uno. Giocare a calcio a livello internazionale. Playing soccer, I know she's very good. Yes, I know she's very good. Proud of her? Yeah, very, very proud. Mucianeta, la sorella, la prende per mano. È una calciatrice molto brava e sono fiera di lei, ci dice. It's only that when she started playing soccer. Quando ha cominciato a giocare il calcio non mi interessava. Ho capito poi che per lei è molto importante, le ha permesso di viaggiare e vorrebbe diventare una professionista. Io ci credo, penso che ce la farà, sarebbe molto bello. Yes, yes, yes, yes, yes. Yeah, very nice, sure. Yes, very difficult because our parents died. My father died in... La situazione è molto difficile. Mio padre è morto nell'89 e mia madre nel 2000. Ho dovuto occuparmi di tutti i fratelli e di mia sorella. Siamo rimasti senza genitori quando ero ancora una ragazza. Poco fa sono morti uno dei miei fratelli e sua moglie. È difficile. So it became difficult also for me. Yeah. Looking after a lot of people. Yes. We have to sell the cold drinks, the ice. Ho due bambini e devo occuparmi di molte persone. Per tirare a campare vendiamo ghiaccio e bibite fresche. Riusciamo a guadagnare $2-3 al giorno. È che siamo in tanti. La mia sorella più giovane è morta e devo occuparmi anche dei suoi due bimbi. My younger sister also passed away. I had two kids here. I live with them here. So it's difficult for me. Tanti morti, un responsabile unico, l'AIDS, che ha decimato la popolazione di questo paese. I think it's the HIV, both my brother and my younger sister. Ci parla delle difficoltà quotidiane, Mucianeta, di quelle difficoltà che un giorno Sue spera di abbandonare grazie al calcio. There are so many problems. We live, we are not freely. Like here, have many kids here. È dura, racconta, troppi problemi. In queste due stanze viviamo in 8. Due stanze che non superano i 18 metri quadri. And what is written there, do you know? What sort of prayer? Su ci fa vedere le stanze, sono pulite. Il gabinetto è un bugigattolo con un buco per terra. Una porta sgangherata lo separa dalla stanza dove c'è il letto. A terra, in questa stanza, alcuni bidoni di acqua. Alla parete il poster di un'attrice e un'immagine religiosa con una preghiera. Oh Lord, when I grow up well, please help me to remember each and every day. To count my blessings and not my crosses. To count my gains and not my losses. To count my loves and not my tears, to count my joys and not my fears, to count my health and not my wealth, and most of all, to count on God and not on myself. Il calcio, i suoi sogni e le sue speranze. E domenica Marc Duvillard ci accompagna a vedere una partita che vede impegnata una squadra della sua Soccer Academy, la scuola di calcio. Su che è arrivata all'Academy quando abbiamo cominciato con le ragazze del 2003 e lei viveva a Bari, che è un quartiere abbastanza difficile, viveva col fratello e la sorella, i genitori sono deceduti. E dopo un po' abbiamo visto che la sua situazione a 14 anni, 13-14 anni era troppo difficile, l'abbiamo preso qui nella nostra, chiamiamola la Ayasa House, dove vivono Adesso oggi vivono 15 ragazzi di 14-15 anni e 4 ragazze. Una ragazza viene qui per giocare a calcio, ma non solo? No, soprattutto per le ragazze, diciamo che sì, vengono, diciamo, il filo rosso è il calcio, ma per lei e per le ragazze cerchiamo proprio di aiutarle a andare a scuola, a studiare, e chi non riesce a studiare perché non ha le qualità o perché hanno sofferto, perché qui in Zimbabwe nel 2007-2008 la scuola pubblica non ha funzionato perché nessuno andava a lavorare, e abbiamo adesso tutto un gruppo delle ragazze che seguono dei corsi o dei corsi privati, e un altro gruppo che non può più andare a scuola fa un corso di sartoria. Calcio, ma al tempo stesso scuola. Anche perché vivere di sport, soprattutto per le donne, non è per nulla scontato, anche per le più brave. Nello Zimbabwe è molto difficile, perché non dobbiamo dimenticare che il calcio femminile è cominciato in Africa abbastanza più tardi che in Europa. L'unica chance per loro è di farsi forse notare e di avere la possibilità di andare a giocare in una squadra in Francia, in Germania, in Italia, e le ragazze possono essere professionisti. 119. Lasciamo la Soccer Academy e il campo di calcio. Sasha, che ci fa da autista, ci racconta della vita quotidiana. Ha dei figli a scuola, difficoltà a far fronte a tutte le spese. Un docente guadagna circa $190 al mese, ma non basta, spiega. La vita è cara, è una lotta quotidiana, ci dice ancora. $200 è l'affitto per un appartamento di 2 stanze. Tutti noi cerchiamo di avere una seconda o terza occupazione, altrimenti non ce la facciamo, precisa.